Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Devo dire, per molti versi sono temi che rappresentano un proseguo di quanto ho già detto ieri. La Grecia innanzitutto, per quello che riguarda il rendimento dei titoli di Stato greci, già vi hanno ricordato i nostri GR24, attenzione, si è invertita la curva del rendimento, ossia rende più investire a breve nel debito greco che non a lungo. Cosa vuol dire in termini concreti? È quanto capitò all'Italia nel periodo peggiore dell'attacco all'Italia a fine novembre 2011, quello che poi si concluse con le dimissioni del Presidente del Consiglio di allora, Silvio Berlusconi. In un mercato normale, quando un paese è affidabile, rende di più, ossia uno Stato deve pagarti di più se vuole ottenere i tuoi soldi quando investi sul suo debito a 10 anni di quando invece compri un botto a un anno. Perché? Perché si dice, insomma, ci vuole più fiducia a investire su 10 anni e quindi ti do un premio per la fiducia maggiore che tu hai. È come, insomma, se uno chiedesse un prestito a un anno o a 10 anni. Nel caso in cui un paese invece venga visto a rischio default, a rischio fallimento, rende di più, quindi costa di più allo Stato trovare finanziatori a breve termine, a un anno, che non a 10 anni. Questo perché? Perché a 10 anni nemmeno si vuole scommettere sulla tenuta di quello Stato. Cioè si è così, si teme così tanto il fallimento dello Stato stesso che costa moltissimo prestare soldi, o costa allo Stato prestare soldi, ricevere soldi in prestito a breve, e quindi i tassi di interesse sono molto alti. Sul lungo termine, come dire, boh, chissà se sarai ancora vivo. E infatti quello che sta capitando alla Grecia è questo, cioè per ottenere soldi a 3 anni, per ottenere finanziatori a 3 anni sul suo debito, Atene deve offrire il 9%, mentre per ottenere finanziatori sul suo debito a 10 anni offre solo l'8,2% di rendimento. Perché questo? Ripeto, perché sui 10 anni nessuno sa che fine farà la Grecia, mentre sui prossimi 3 anni il rischio viene percepito come altissimo e quindi sale molto la richiesta di quanto devi offrire come rendimento se vuoi i miei soldi. Oggi la Grecia comunque ha collocato 3 miliardi di titoli di Stato con dei tassi a massimi da giugno, ma non quelli che vediamo nel mercato secondario. Il titolo di Stato, il bot greco a 6 mesi, è salito al 2,15% come rendimento, e il tasso è quello trimestrale, è fatto l'1,80%. È calata la domanda, anche se è tutta soddisfatta, nel senso che rispetto ai 2 miliardi e 9 la domanda è risultata 1,8 volte superiore, e rispetto al trimestrale 1,3 volte superiore, anche se è calato il numero di quelli che hanno fatto domanda di titoli di Stato greci. E questa è una notizia, ne parleremo, perché al di là del rendimento dei titoli di Stato e di un mercato che inizia a ragionare su una Grecia che potrebbe fallire da qui a breve, beh, il tema è tutto politico, e mi sembra di poter dire che il premier Samaras sia in un vicolo abbastanza cieco, o comunque tra il martello e l'incudine. Perché? Perché da un lato, se adotta le riforme che chiede la Troica, quindi il Fondo Monetario, la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea, il crollo della popolarità è abbastanza certo, due soprattutto, aumento dell'età pensionabile e aumento dell'IVA. Se non lo fa, però, comunque la Grecia non rispetta i patti, si andrà comunque ad elezioni e vincerà comunque probabilmente con questi numeri Tsipras, e quindi l'estrema sinistra. È una situazione molto delicata, cioè se la Grecia in questo momento sostanzialmente ottempera e quindi continua a fare quello che ha promesso, la tempesta finanziaria probabilmente si placa, ma Samaras è sicuro di perdere le elezioni. e quindi è sicuro che vinca Tsipras. Ne parleremo rapidamente nella seconda mezz'ora del programma, parleremo anche del rapporto con la Germania, adesso qualche notizia, e di quanto sta capitando in Europa. Una buona notizia sulle assunzioni, visto il periodo, arriva da McDonald's, che soffre come Conti a livello americano, però continua a assumere in Italia, e comunque sarà anche l'occasione per fare il punto sugli indicatori, sui consumi che emergono dal fast food per eccellenza, dove chi va di solito non va certo per spendere, e di solito da lì vediamo anche degli indicatori proprio sul tipo di utilizzo. La borsa meno 0,75% Milano, meno 0,70% Parigi, più 0,25% Francoforte, meno 0,20% Londra, meno 0,70% l'America. Tra i titoli oggi in positivo Hughes più 3%, Prismian più 3%, Luxottica più 1,80%, Mediaset più 1,5%, Unipol, SAI e Moncler più 0,80% come A2A. Fronte opposto, eccolo qua, Fiat Chrysler, anche di quello parleremo, della vicenda Ferrari e della sede fiscale a Londra, ma anche di un titolo che continua a perdere da un paio di giorni, meno 6%, molto era cresciuto nel passato, nelle ultime settimane meno 6%, Saipem meno 4,90%, UbiBanca meno 2,80%, CNH meno 2% come Mediobanca, Popolare Emilia Romagna, Pop Milano e Tenaris, anche il Banco Popolare perde l'1,80%. Ultima cifra 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Sì, no, vedo alcuni messaggi sulla Grecia, sono parzialmente d'accordo, è vero che far pagare la Grecia 7 miliardi di interessi sul debito significa che tutti gli sforzi che sta facendo la Grecia, anche quel poco di avanzo primario, cioè la differenza tra entrate e uscite prima del pagamento degli interessi, va tutto sugli interessi e sul debito. Sì, a mio avviso il tema è anche di carattere politico, cioè tu puoi avere una Grecia che aderisce a tutto quello che chiede la Troica, sai però per certo che a quel punto a febbraio vincono quelli che tendenzialmente vogliono far saltare tutti questi accordi e potenzialmente anche uscire dall'euro. Bisogna capire qual è la lungimiranza di questi nostri politici europei, se vogliono avere l'uovo subito o tenersi anche la gallina per i prossimi giorni, perché per i prossimi anni, scusatemi. Poi uno dice no, intanto paga gli interessi, poi salta il paese, torniamo a fare il circo dell'attacco al debito sovrano e dell'attacco all'euro, e va bene, è un film che abbiamo già visto, Allora, a proposito dei nostri così politici europei, intanto in Spagna è arrivato oggi un dato identico a quello italiano di ieri su quanti spagnoli stanno emigrando all'estero, sempre di più, addirittura più 20% rispetto all'anno scorso. Praticamente in Spagna l'anno scorso hanno lasciato il paese quasi 43.000 persone, nel primo semestre dell'anno, 43.000 persone. È un più 20% rispetto ai primi 6 mesi del 2013, e di questi quasi 28.000 sono spagnoli, gli altri sono originari di altri paesi, nazionalizzati spagnoli. Perché lo dico? Perché in Spagna la statistica va anche oltre a quella dell'Istat di ieri, e cioè dimostra come se nel 2012, quando la Spagna ha iniziato a perdere popolazione a causa della crisi economica, cioè inizialmente erano solo gli spagnoli non di origine spagnola, quindi nazionalizzati, ex emigrati, che tornavano nei paesi di origine, adesso 6 su 10 di quelli che se ne vanno sono spagnoli non nazionalizzati, ma spagnoli d'origine. Dicevo invece degli euro dei nostri politici europei, Juncker, il presidente della Commissione europea. Oggi lascia una lunga intervista al Frankfurt Allgemeine Zeitung, uno dei principali quotidiani tedeschi, anche quello più duro con l'Italia, non sempre, ma spesso e volentieri. Allora, dice Juncker, da un lato dovremmo dare fiducia agli italiani e ai francesi e poi vedremo proprio a marzo come sarà andata. I governi ci hanno garantito che faranno quanto hanno annunciato e va bene. Poi continua però: se l'Italia e la Francia non procederanno con le riforme annunciate, si arriverà a un inasprimento della procedura sul deficit. E se alle parole non seguiranno i fatti, per questi paesi non sarà piacevole. Ma che vuol dire? Ci sono tutta una serie di procedure, se non riterrete necessari gli sforzi italiani e francesi andrete avanti con le procedure di infrazione, nel senso sul deficit. Ma che vuol dire per questi paesi non sarà piacevole? Che è una minaccia, Juncker? Che cosa sta facendo? Agita il ditino contro l'Italia e la Francia. Ma lei si ricorda che dopo la Germania, la Francia e l'Italia sono i due paesi più grandi dell'area euro? No, perché va bene, io posso anche capire. Lo facciamo anche in Italia, vieni intervistato dal Frankfurt Allgemeine Zeitung e fai il duro perché devi parlare all'elettore tedesco, fai la faccia feroce, come dicono a Napoli. Va bene, basta che poi seriamente lei non creda a quello che ha detto. Le conseguenze non saranno piacevoli, è una minaccia che lei non può fare a due paesi che sono da soli, pesano più anche della stessa Germania. Ho capito che parla Frankfurt Allgemeine Zeitung, perché avrebbe voglia di dire: va bene, vediamo cosa ci fate, farai la procedura di infrazione per deficit eccessivo. E che devi fare? Cosa fa? Ci invade? Dal Lussemburgo? No, perché in tutto questo continua a difendere il suo piano, a mio avviso che è un wishful thinking, un desiderio, un sogno. 300 miliardi senza debito, in realtà l'Europa ne mette 21, ne mette in realtà 15 perché gli altri sono della BEI, e si aspetta il piano Juncker che gli altri 280 arrivino dai privati, così ha un effetto leva 1 a 15 quasi, una roba miracolosa. E dice: no, il piano di investimento europeo da 315 miliardi non è un piano di investimento da 315 miliardi, Juncker. Allora faccia il tedesco, dica: il piano europeo da 15 miliardi più 6 della BEI, con la speranza che i privati mettono gli altri 280 miliardi. E no, perché sennò sta a fare un po' troppo l'italiano, Juncker. Allora, contribuisce a ridurre la distanza tra l'Unione Europea e i cittadini e toglie spazio ai populisti. Qui si tratta di crescita e posti di lavoro, una risposta forte agli euroscettici. Bisogna combattere il populismo, ridurre il solco. E poi però gli dice: ma scusi, ma i soldi, io non spendo soldi che non ho, quindi i soldi sono solo 15 miliardi. Ho presentato un nuovo fondo da 300 miliardi senza creare un nuovo debito, bisogna investire per creare lavoro per i giovani, ma non spenderò soldi che non abbiamo. E ancora: il piano è credibile, realistico e realizzabile, possiamo agire sull'economia solo sui soldi che abbiamo, non vogliamo accendere alcun fuoco di paglia che si possa estinguere fra 2-3 anni, no fare nuovi debiti, non possiamo aumentare il volume dei nuovi soldi, spendere solo quelli che abbiamo. Terapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befadina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. E non so se sia traducibile a Juncker, però poi qualcuno finalmente gli chiede, il giornalista del Frankfurt Allgemeine Zeitung, ma insomma, è la vicenda LuxLeaks, cioè lo scandalo del Lussemburgo che ha aiutato centinaia di grandi gruppi a eludere la pressione fiscale, a eludere le tasse dei paesi dove operavano, facendo pagare tasse in Lussemburgo, anche se lì praticamente non facevano se non un nulla, una parte minore degli utili. Risponde Juncker: non mi dimetto. Vedi che a forza di tenere l'Italia dentro si sta italianizzando. Non mi dimetto, ma ho sofferto per ciò che è uscito sulla stampa, mi rende triste. Ho sofferto nella percezione, mi ha fatto soffrire nella percezione pubblica per quello che è uscito sulla stampa, mi rende triste. Sì, anche perché la stampa si è limitata a riportare quello che è accaduto. Per esempio, oggi sulla stampa internazionale, caro Juncker, non vorremmo renderla ancora più triste, esce che gli accordi fiscali estremamente vantaggiosi che le multinazionali di tutto il mondo raggiungevano con il Lussemburgo quando lei era presidente del Consiglio per 18 anni, anche questo ci rende tristi, Juncker. c'erano 35, sono 35 nuove imprese citate nei documenti ottenuti dal consorzio internazionale di varie testate, che, e ci sono anche tantissime colossi mondiali, c'è la Walt Disney, c'è la Koch Industry, c'è Skype. Praticamente andavano a pagare, pensate che Skype pagava un totale di imposte pari al 5% dei suoi utili grazie al trasferimento fiscale in Lussemburgo. La Walt Disney, Topolino, Paperino, qui, qua, qua, cioè pagavano lo 0,28% sugli utili, lo 0,28%. E poi c'erano anche Apple, Amazon, Ikea, Pepsi, tutti. E lui è triste, anche noi siamo tristi. Gli unici allegri qua chi sono? Sono le multinazionali che pagano 0,28. Tant'è che poi oggi, a me dispiace, perché Riccardo Cardoso è il portavoce di uno dei portavoce di Juncker. Durante le domande che facevano i giornalisti sulle nuove rilevazioni per, sullo scandalo Lux Leaks, è svenuto all'indietro. Per fortuna si è rialzato dopo pochi minuti, il briefing sospeso, è stato soccorso immediatamente dai colleghi giornalisti, per cui insomma massima solidarietà, evidentemente era anche sotto pressione. Però Juncker, noi siamo molto vicini alla sua tristezza, lei si avvicina alla nostra quando ascoltiamo le sue dichiarazioni. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso parliamo un po' di rendimenti, ma soprattutto di quello che sta capitando a McDonald's. Scrive un ascoltatore: lei non sfotta inutilmente, fa solo una figura di me. Ma perché? Io non sto sfottendo, dico semplicemente che qua la capacità di autocritica del Presidente della Commissione Europea è pari a zero. Ma come? Dici che sei triste, hai sofferto? Oh, c'è uno scandalo internazionale in cui facevi pagare lo 0,28% sotto il tuo governo, 18 anni di governo, Juncker. Almeno ammetti che qualcosa avete sbagliato, se no alzi il ditino sull'Italia e la Francia. Guardate, io vado fuori di testa su queste cose. Com'è che ha detto Juncker oggi, faceva il duro con i tedeschi, cioè quando parlava con i tedeschi, se alle parole non seguiranno i fatti per questi paesi non sarà piacevole. Ai, aspettiamo l'invasione del Lussemburgo, ma ah, dai, per favore. Allora chiediamo coerenza e serietà a tutti, ai nostri politici, ed è diciamo un bene raro, ma anche a quelli europei, perché non si può, noi difendiamo l'Europa, difendiamo l'euro, ma non certi esponenti della Commissione Europea. Vabbè, intanto il nostro BTP come rendimento si è leggermente rialzato. Il bot a un anno, oggi il Tesoro ha collocato 5 miliardi e mezzo di bot a un anno. Il tasso è, quindi il rendimento è leggermente salito, lo 0,41%, però buona la copertura, è addirittura cresciuto, cioè il numero di domande di nostri bot a un anno sono cresciute dall'1,78% dell'offerta all'1,82%. Lo spread tra BTP e Bund è andato a 142 punti, sono ancora livelli bassi, bassissimi, per cui certo è il livello più alto dello scorso 27 novembre, ma vabbè. Va bene, andiamo avanti con le notizie. Vediamo, abbiamo avuto ospiti nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, alcuni gruppi che annunciano, l'ultimo fu in pregiro Salini due giorni fa, che annunciano assunzioni anche in Italia. Ce n'è un altro, si chiama McDonald's, e non devo spiegarvi cosa fa. Vuole aprire 15 nuovi ristoranti entro fine dicembre, praticamente ci siamo, uno al giorno, e per un totale di 500 posti di lavoro in un solo mese. Allora, grazie intanto a Roberto Masi, che è l'amministratore delegato di McDonald's Italia. Buonasera. Buonasera a lei, Sebastiano, a tutti i radioascoltatori. Allora, 15, cosa fate? Ne aprite uno al giorno? Sì, direi di sì, uno al giorno. Ecco, questo, poi veniamo anche al tipo di posti che offrite, ma ci ha incuriosito perché nel frattempo è arrivata la notizia a livello di McDonald's mondiale e soprattutto di McDonald's America, che ha registrato un brusco calo delle vendite. Le agenzie titolavano crollo delle vendite, meno 4,6% negli Stati Uniti, meno 2,2% a livello mondiale. E lì c'era uno scandalo in cui in Italia si è parlato poco dei fornitori in Cina, no? Ma anche una capacità di risposta di McDonald's con il Create Your Taste. Allora ci spiega una cosa: come vanno le vendite mondiali e quanto questo si tanto si ripercuote in Italia e poi si collega alla crisi economica, perché uno potrebbe anche pensare che voi avete già un index che viene usato dall'Economist, il McDonald's Index sul costo della vita, però uno potrebbe pensare che voi funzionate un po' come il rossetto, cioè più c'è crisi più uno consuma rossetto perché non ha i soldi per andare in vacanza o spendere dal chirurgo plastico, e anche lì più c'è crisi più uno, almeno per portare il figlio fuori al ristorante, magari non riesce più ad arrivare a un ristorante più costoso, ma almeno a McDonald's ci va. Allora, la domanda è abbastanza complessa, nel senso, è vero che negli ultimi due mesi McDonald's ha registrato un calo delle vendite, come ha detto lei, l'ultimo mese del 4 e il precedente del 2, ma queste sono vendite a rete costante, cioè quando confrontiamo gli stessi ristoranti. Se prendiamo le vendite globali di McDonald's, il risultato è in leggera crescita o addirittura intorno a zero e qualche cosa. Quindi comunque McDonald's sta crescendo anche a livello globale. E poi, dopo 14 anni di crescita, perché questo poi ci si dimentica rapidamente, McDonald's ha registrato 14 anni consecutivi di crescite sostenute, in alcuni anni anche a doppia cifra, sono arrivati un paio di mesi negativi. E le agenzie proclamano i loro disfatte, crisi del junk food. Noi all'interno dell'azienda pensiamo che dopo 14 anni prima o poi un leggero calo o un cambio di tendenza poteva esserci. Da dove arriva? Arriva dal mercato statunitense, principalmente, come ha detto lei, e dai paesi che erano più in crescita, che sono appunto Cina e Giappone. Cioè, mi faccia capire, sono i paesi che stanno più crescendo dove arrivano i maggiori cali su McDonald's? Ossia, sono... No, perché avrebbe anche un senso, cioè come tu riprendi un potere d'acquisto, alla luce di quello che ho detto un secondo fa, può anche essere che uno dica, beh, adesso faccio un discorso un po' grossier, adesso che l'America è tornata ai livelli pre-crisi, la Cina non c'è neanche mai entrata quasi nella crisi, insomma, come aumenta il potere d'acquisto uno va un po' più in altri ristoranti, ma senza nulla, senza offendere, ci mancherebbe, è un po' meno in un ristorante che costa un po' meno, o no? No, allora, noi normalmente siamo anticiclici in giro per il mondo, non troviamo questi effetti proprio di paese che cresce, McDonald's che diminuisce o viceversa. E, diciamo che negli Stati Uniti, non sono responsabile degli Stati Uniti, ma quello che annunciano è che abbiamo bisogno un po' anche di rinnovamento della formula di ristoranti, di adattare il menù e via dicendo. Quindi dopo 60 anni di continuo successo dicono forse dobbiamo un po' anche adeguarci al cambio dei consumatori, cosa che invece non avviene in Europa, perché le tre paesi che hanno registrato un paio di mesi vendite negative non hanno detto l'Europa e l'Italia, perché tutto sommato in Europa invece spinti appunto dai consumi, dell'abitudine, dalla concorrenza che è ben diversa e dal modo di mangiare degli italiani, noi ci siamo rinnovati un po' prima, quindi abbiamo un po' adeguato i nostri ristoranti meno fast e più good food fast, e abbiamo rinnovato la nostra formula, oggi siamo i leader della caffetteria in Italia, vendiamo le insalate, quindi siamo stati costretti, diciamo così, ad adeguarci un po' più velocemente al consumo dei paesi in cui operiamo. Ecco, veniamo all'Italia, perché vedo anche molti messaggi, ragazzi, insomma, 500, sapete come la pensa questo programma, 500 assunzioni, le assunzioni non hanno colore, odore, sono tutte buone comunque, poi è ovvio che nella vita magari uno preferisce fare l'ingegnere, un altro preferisce fare un'altra cosa, non stiamo raccontando, diciamo, la favola di Cenerentola, però in un momento come questo vedere che McDonald's apre 15 ristoranti è una notizia per noi ed è anche una notizia positiva. 15 ristoranti entro fine dicembre, se ho ben capito sono a Modena, Verano, Brianza, Segrate, Magenta, quindi sempre provincia di Milano, Dalmine, Bergamo, Fiumicino, Palermo, Roma, 2 ristoranti, Brembate, Cagliari, poi a Sestu, Barletta, Castegnato in provincia di Brescia e Trapani, ho capito bene? Corretto, ha elencato giustamente i 15. Quindi mi date un premio? Mi date no, non ne fai io a memoria, faccio difficoltà. L'altra cosa, vedo che sono a Trapani, Palermo, Cagliari, Sesto, ce ne sono anche al sud, no? Questo mi interessava. Che dati state ricevendo a livello di consumi, che mi interessano come indicatore macroeconomico? E dall'altro invece che tipo di assunzioni saranno, cioè questi 500 posti, va bene anche così, non c'è nessun problema, magari sono di profilo anche economico basso. Allora, per quanto riguarda le assunzioni, purtroppo stiamo i consumi, purtroppo stiamo registrando ancora dei segnali di consumi estremamente deboli. Addirittura ottobre e novembre sul settore del mangiar fuori casa, perché quelli che riceviamo noi per primi, essendo operando in quel settore, ahimè sono stati due mesi tra i peggiori degli ultimi 24 mesi. Quindi stiamo parlando di -3.5, -4. Quindi vuol dire questo che gli italiani ancora stanno facendo fatica. -3.5, -4% sì, anche per voi. Sul mangiar fuori casa, esattamente, questo settore. E quindi vuol dire che gli italiani stanno tagliando appunto la spesa un po' più voluttuaria, mangiare fuori casa, soprattutto i weekend e a cena, che questo dimostra appunto che è il mangiare fuori casa più per, come posso dire, sì, certo, non piacere, per necessità. Bravissimo. Che uno si trova in giro per lavoro deve mangiare qualcosa, certo. Che è più il Senta, 500, mi chiedono gli ascoltatori, come mai non si trova mai un cinquantenne dietro i vostri banconi? Hanno ragione, forse perché non accettano, o voi preferite come politica? No, esatto, è la seconda. Noi ovviamente quando offriamo i nostri posti di lavoro, anche questi 500, diciamo fino a un massimo di 31-32 anni. Perché la nostra clientela è principalmente giovani, sono ragazzi, adolescenti e famiglie con bambini, quindi abbiamo ormai abbastanza prove che c'è maggior chimica fra chi serve, chi al nostro banco. Sì, l'importante è che la chimica non stia nel McDonald's. No, se posso, no, assolutamente. Quindi è una questione proprio di, diciamo, dialogo e di interrelazione. No, quelle non sono scelte aziendali, ci mancherebbe se io le discuto. Uno può mettere giustamente l'aspetto fisico e l'età c'entrano in moltissimi, in moltissimi lavori, e voi ritenete che per il tipo di pubblico che avete, quello è, così come noi abbiamo dei programmi indirizzati tendenzialmente a un certo tipo di pubblico, poi aperti a tutti, e ci mancherebbe. Ciò non vuol dire che non abbiamo comunque all'interno del nostro organico, noi oggi impieghiamo 20.000 lavoratori in Italia, che non ci sia una parte di quarantenni o cinquantenni, quindi li abbiamo. Sì, vabbè, la minoranza protetta. Sì. Senta, che profili avete e quanto li pagate? Allora, i profili sono, io le do un dato, dei nostri 20.000 lavoratori oggi il 94% a tempo indeterminato, quindi proponiamo in queste 500 assunzioni il 60% contratto apprendistato triennale, il 99% normalmente da noi viene confermato, quindi il contratto apprendistato è considerato a tempo indeterminato, il 60% di essi sono part time tra i 24 e 30 ore e il 40% full time. Quanto li paghiamo? Secondo il contratto del turismo e del commercio italiano, che è quello che tutti chi opera in questo settore in Italia, quindi alberghi, ristorazione, paga, che è quello siglato con la Confcommercio, quindi un full time sulle 1.200-1.250 euro lorde come gradino d'ingresso. Poi chi ha ruoli di responsabilità può arrivare e passare anche le 2.000 euro. Grazie, grazie. Comunque interessante che voi apriate, alcuni mi segnalano gli ascoltatori sono già aperti, mi dicono che a Modena avete già aperto, in realtà io li citavo tutti, beh, se sono uno al giorno, e che comunque questo fa parte... Però volevo del piano dire, chi non rientra in questi 500 di dicembre, volevo confermare, domani lo annunceremo sulla stampa nazionale, e che confermiamo anche 1.000 nuove assunzioni per il 2015. Esatto. Il 2015 e me le avete fatte, perché lei venne una volta a raccontarci 2.000 assunzioni in due anni, le avete fatte quelle? 2050 per la precisione. 2050, i 50 erano cinquantenni? No, ce n'era qualcuno, pochi di più però. Vabbè, allora, se volete trovare un lavoro da McDonald's andate al chirurgo plastico. No, 2.000 assunzioni quindi fatte negli ultimi due anni, 1.000 nell'anno prossimo e 500 adesso e 30 nuove aperture nel 2015. Grazie al ministro delegato di McDonald's Italia Roberto Masi. Grazie a lei, buonasera. È sempre allegri, bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. E questa l'abbiamo dedicata a Juncker, che è triste, triste per quello che la stampa ha scritto su di lui. Meteo. Allora, adesso andiamo, alcuni che vogliono sapere se è vero che apre anche Kentucky Fried Chicken, adesso non è che posso fare il programma c'è una lista di annunci di assunzioni e di fast food. No, io non ho nessun atteggiamento snob nei confronti di McDonald's, ci vado a mangiare anche ogni tanto, certo, insomma, ognuno fa le valutazioni che vuole. Sì, c'è chi scrive: in Italia è vietato discriminare in base all'età, e che discorsi, si dice semplicemente che, ma uno anche banalmente apre un negozio, avrà il diritto di scegliere come vuole, che caratteristiche devono avere i suoi dipendenti, quello si può fare, cioè, non lo puoi mettere nero su bianco. Lui ha solo detto che per il rapporto col tipo di clientela che hanno preferiscono avere dipendenti più giovani, insomma. Allora, molti mi fanno notare: in questo modo chiuderanno altri negozi? No, altri. Questo messaggio va in contrasto con altri messaggi che dicono le pizzerie sono sempre piene. Attenzione, quello che noi vediamo è che chiude chi non aveva senso, o meglio, aveva uno scarso rapporto prezzo-qualità. Non prezzo basso, prezzo-qualità, perché se tu hai una pizzeria senza senso, magari il prezzo era anche basso, ma probabilmente restavi sempre vuota, e lì arrivano i cinesi, lo sappiamo, l'abbiamo visto, c'è un mercato anche per loro. Ma vediamo che chi ha un buon rapporto prezzo-qualità, magari il prezzo non è poco, ma la qualità è ottima, lì tutti quelli della fascia di mezzo obiettivamente soffrono nella ristorazione, nella moda, nell'abbigliamento, nel commercio. E poi le assunzioni di McDonald's non sono una buona cosa, quella roba è tossica e sminuisce il valore dei buoni prodotti locali. Senta, ma esiste anche la democrazia e la libertà. Cioè, se io voglio mangiarmi, lasciamo stare McDonald's, 4 sacchetti di patatine e far schizzare il colesterolo, sono fatti miei. Che vuol dire adesso? Proibiamo il McDonald's? E farai accanto una pizzeria ecologica con, diciamo, la farina Kamut, forse un po' più fighetta, forse un po' più cara, ma meno male che c'è anche McDonald's e altri fast food, le pizze al taglio e i kebab, tutta cosa che ti fa pagare poco. E perché dobbiamo solo la cosa da gauche caviar? Non so, a me sembra sempre di ragionamenti un po' snob. Comunque dai, la borsa, e poi andiamo agli altri temi di questa puntata, che poi si chiamano Fiat, che facciamo subito con la borsa, Grecia e in realtà di nuovo Italia, Germania, ma non calcisticamente parlando, lì c'è andata sempre meglio. Meno 0,90% Milano, meno 0,80% Francoforte, invariata, meno 0,80% Parigi, invariata Francoforte, meno 0,90% l'America, meno 0,36% Londra. Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore, partiamo proprio da qui, ossia da Piazza Affari, dalla Fiat, perché CNH Industrial ha perso oggi il 2,20%, ma Fiat Chrysler Automobiles il 6,60%. Eleonora, buonasera. Buonasera. Prego. Sì, Fiat è andata molto male, meno 6,6% come hai detto tu, per una serie di fattori. Innanzitutto Marchionne è negli Stati Uniti per presentare un bond convertibile il cui prezzo dovrebbe essere fissato questa sera. Alcuni trader hanno iniziato a fare ipotesi del prezzo di questo bond convertibile e quindi a vendere le azioni facendo proprio degli switch, diciamo, con il bond che è in fase di essere piazzato. Detto questo, poi è uscita anche la notizia che Ferrari potrebbe volare all'estero, la sede fiscale potrebbe volare a Londra, in Gran Bretagna, e in verità la stessa Ferrari non è che abbia smentito, anzi ha detto che per adesso si tratta di un'ipotesi e che la decisione verrà presa nei prossimi mesi, quindi è quasi una sorta di mezza conferma che quindi è al vaglio anche degli analisti, più che altro magari ha anche dei riscontri positivi dal punto di vista del bilancio, però ovviamente si vuole capire quanto impatto abbia anche sul marchio del Made in Italy più conosciuto nel mondo. Sì, avrà degli impatti sicuramente positivi per il gruppo Fiat, meno per il fisco italiano, ecco, diciamola così, visto che parlavamo anche di Lussemburgo prima. Dopo il traffico andiamo invece su Saipem, su Mediaset, su Prismian, e ascolteremo anche quanto dichiarato oggi, un pezzetto della dichiarazione di Tarak Ben Ammar, che è consigliere Telecom, ospite a Radio 24 con Giovanni Minoli a Mix 24, proprio in merito a Telecom Italia. Traffico. Thank you. 7:48 minuti. Allora, dicevamo di Saipem, Eleonora Micheli, oggi in borsa, meno 5,20%, sì. Di nuovo pesante calo, prego. È pesante perché innanzitutto il petrolio continua ad andare giù, poi si sperava che uscissero delle novità e anche delle rassicurazioni dal consiglio di amministrazione, invece di fatto non è uscito niente di tutto questo, si è tenuto il consiglio di amministrazione dell'azienda, ma effettivamente è stato solo preso, c'è stata la presa d'atto che la scorsa settimana è stato annunciato che il progetto South Stream a cui stava a questo punto lavorando l'azienda è stato congelato, è stato sospeso. Ovviamente il riscontro per la società è negativo e il titolo ha continuato ad andare giù, ma come tutto il comparto petrolifero anche Eni anche oggi ha perso un altro 1,3%, perché peraltro in questo momento il WTI perde oltre il 4%, il 4,65%, si attesta a $60.83 al barile. Allora, per quello che riguarda invece altri titoli, notiamo oggi una debolezza, il prezzo del petrolio la fa da padrone chiaramente su tutti gli energetici, meno 1,30% a Eni. Ancora per quello che riguarda, abbiamo visto anche Terna oggi perdere l'1,20%, Snam Rete Gas adesso, eccola qua, meno 0,60%. Telecom Italia, dicevo, oggi da Giovanni Minoli a Radio 24, Tarak Ben Ammar ha detto Telecom farà l'accordo con Mediaset, ha anche aggiunto non avrebbe senso adesso scorporare la rete. E ricordo che Tarak Ben Ammar è attualmente consigliere di Telecom Italia. Lei è nel CDA anche di Telecom, nel consiglio di amministrazione. Tra Telecom e Mediaset anche lì ci sono prospettive di accordo? Guarda, Telecom, come tutte le grandi compagnie di telefonia, Spagna, America, hanno bisogno del quadruple play, devono fornire telefonia fissa, telefonia mobile, internet e televisione. Dunque i contenuti saranno necessari. Telecom ha già un accordo con Sky, sì. Ne farà uno con Mediaset. Non ha molti dubbi, Tarak Ben Ammar. Il titolo invece oggi? Il titolo ha perso lo 0,7% perché ci si continua a interrogare soprattutto sulle mosse della compagnia in Brasile, dove è in atto un processo di consolidamento del settore. Soprattutto ci si interroga se la partecipata brasiliana Team Brasil alla fine sia preda o predatrice, ovvero se acquisti Oi o sia acquistata da Oi. Ma sempre nella vostra intervista lo stesso Tarak Ben Ammar ha detto che vede molto più probabilmente Telecom nel ruolo di di cacciatore, speriamo si riferisse proprio a questa operazione, quindi con Team Brasil che potrebbe comprare Oi. Il titolo ovviamente però ha continuato a perdere terreno proprio perché gli investitori si interrogano sulle mosse e quindi se magari acquisterà una società, chissà, dovrà fare anche qualche operazione sul capitale. Veniamo a chi oggi è cresciuto. Yux più 3% un rimbalzo, Prismian più 2,80, Luxottica più 1,80, Uniposai più 1,16, Mediaset era l'unico titolo ieri estremamente positivo, più 1,1. E oggi lo stesso, più 1,1, cioè il rimbalzo è iniziato ieri perché sul finire delle contrattazioni a Piazza Affari la società ha reso noto che la raccolta pubblicitaria nel mese di novembre ha registrato un balzo del 7% su base annua. Si tratta del primo mese positivo che fa ben sperare anche per i mesi venturi, un'inversione di tendenza importante che ovviamente è stata premiata dalla borsa. Allora, grazie, adesso vado sui migliori e peggiori, grazie intanto all'onore Micheli, migliori e peggiori della seduta, Go Internet più 7,5%, Movimax più 5%, Sacom più 3,80%, fronte opposto invece Softec meno 15,30%, Modelleria Brambilla meno 10,20%, Mondo TV meno 6%, Prelios meno 5,45%, 349-238-6666 per i vostri sms. E la pagina di Focus Economia su Facebook e adesso la Grecia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. No, devo dare una risposta prima ad alcuni ascoltatori che sul tema di McDonald's scrivono, caro Barisoni, quello che lei mangia sono anche fatti miei per i costi sanitari quello che uno mangia, dei cattivi stili di vita. E un altro scrive una cosa identica: se lei si ammala paghiamo tutti noi, non sono solo fatti suoi. No, ma abbiate pazienza, ma che vuol dire questo? Allora, visto che io sono fumatore, non so, cioè, ma cosa vuol dire questa cosa? Uno mangerà quello che vuole. Allora, se domani sei distratto, scivoli. Ma è un ragionamento folle, è un ragionamento giacobino, è un ragionamento da gauche, da sinistra al caviale, perché McDonald's fa schifo, però poi chi ha pochi soldi lì dentro ci mangia, no? Dopodiché, rispetto a quello che offre. Allora, diciamo un'altra cosa, visto che alcuni contestano che ruba spazio agli italiani. No. Tutte le volte che gli imprenditori italiani si sono messi a fare catene di cibo a buon mercato, ma buono, e non voglio fare i nomi perché non voglio fare pubblicità in diretta, ma che riguardi le mozzarelle, che riguardi la pizza ecologica, hanno avuto un grandissimo le focacce alla romana, un grandissimo successo. Allora, McDonald's, se uno lo vuole contrastare con prodotti più sani, si contrasta con prodotti più sani investendo, facendo le catene di pizzerie, di focacce, di panifici, di quel cavolo che uno vuole, e si dà la possibilità. In democrazia si chiama libertà di scegliere. Se poi io sono innamorato degli hamburger di Burger King, di McDonald's, saranno fatti miei, no? Cioè, è anche mia la vita. O cosa, andiamo verso lo Stato etico? E chi decide qual è l'etica dello Stato? Che tutti questi piccoli Hegel, non so, mi spaventano più di tanti grandi Robespierre. Vabbè, dai, il nostro sogno di oggi invece è riguardo il tema Grecia. Io non vorrei più vedere Vittorio D'Arold, se non per motivi privati, ma neanche forse per quelli, insomma, in generale non vorrei più vederti, perché nel 2011 eri praticamente un ospite fisso. Io ogni tanto ti incontravo nel corridoio del sole, ciao, come va? Tutto bene. Adesso sei tornato a essere ospite fisso, perché anche oggi sulla Grecia sono dolori. Sì. Prima domanda, qui si è invertita la curva dei rendimenti. Cioè, sì. L'ho spiegato all'inizio, vuol dire che costa la Grecia deve offrire più soldi per trovare investitori a breve che investitori a lungo, perché sul lungo uno neanche vuole ragionare. Non ce l'aspettavamo. Che conseguenze potrebbe avere? Poi ti faccio parlare dopo anche il GR24, adesso intanto questo primo flash. Sì, innanzitutto il rischio di un default, questo è il vero segnale che lancia il mercato, cioè se io mi indebito a tre anni non sono più sicuro, insomma, di riavere il mio capitale, quindi la curva invertita vuol dire che i rendimenti sono al 9%, il che è una follia, dovrebbe essere esattamente il contrario. La pressione è molto forte, allora c'è chi dice che c'è una pressione forse eccessiva, c'è un nervosismo eccessivo, addirittura che questo nervosismo dei mercati sta contagiando già anche Italia e Spagna, più Italia di Spagna, perché l'Italia è più liquida, il nostro mercato dei bond è più liquido, quindi risente più velocemente di qualsiasi terremoto anche lontano, ma insomma c'è veramente un po' di tensione politica naturalmente. Ecco, dopo il GR24 io vorrei capire invece con te come ne uscirà Samaras, perché a me sembra veramente tra l'incudine e il martello, ma il GR24 intanto, e poi torniamo a parlare di Grecia e di Italia e Germania. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Alle 18:07, ritorna Focus Economia. Avevamo appena iniziato l'approfondimento sulla Grecia. Allora, al di là dell'inversione della curva, che vuol dire semplicemente che lo scetticismo degli investitori è così alto per essere buoni sulla Grecia che costa di più allo Stato greco trovare finanziatori per il suo debito a breve che non per il suo debito a lungo, non è una bella cosa questa, perché vuol dire che non si scommette neanche sul lungo. Vittorio D'Arold, il tema mi sembra a cavallo tra economia e politica, e mi spiego. Le cose che la Troica, che non è un insulto, ma è la commissione, il gruppo di lavoro formato da Banca Centrale Europea, Commissione Europea e Fondo Monetario, chiedono alla Grecia, e chiedono nello specifico al presidente Samaras, sono sostanzialmente un pacchetto di misure, tra cui ci sono, se ricordo bene, l'aumento dell'età pensionabile, l'aumento dell'IVA e altre misure. Ora, da come la vedo io, se Samaras fa quello che dice la Troica, il distacco dei sondaggi con il partito di Tsipras, quello di estrema sinistra contro il rispetto dei patti, potenzialmente per l'uscita dall'euro, aumenta. Se non fa quello che dice la Troica, salta ancora di più il paese. Cosa deve fare Samaras? Effettivamente qui c'è un classico esempio dove la Troika ha come dire, ha avuto un atteggiamento molto tecnico e poco politico, cioè ha chiesto a Samaras di andare al voto in una situazione di grave impopolarità, perché ha chiesto ben 19 misure, di cui le ultime due, appunto, di cui accennavi tu, erano quelle più impopolari. La situazione è che dopo 4 anni e mezzo di misure di austerity, il paese ha svoltato l'angolo, nel senso che ha cominciato a crescere. Naturalmente ha perso il 25% di tutto il PIL, quindi ci sono stati sacrifici pesanti, i salari medi dei greci sono diminuiti del 40%, quindi c'è stata una grossa pesante ristrutturazione di tutto l'apparato economico, ma oggi si cominciano a vedere i primi frutti. No, così rispondiamo oggi anche a un ascoltatore che in maniera molto polemica, vabbè, oggi è giornata, diceva: ma insomma, poche settimane fa parlavate della Grecia, ci ricordiamo delle pirlate sul boom greco. No, erano tutti dati che adesso stava ricordando anche Vittorio Darold. Adesso cosa è successo? Forse sarebbe meglio che continuiate a parlare di hamburger. Parliamo anche di hamburger, ma parliamo anche della Grecia, dove è difficile mangiare gli hamburger. È successo che la Grecia e conti li ha nel frattempo un po' sistemati. Abbiamo visto un avanzo primario per la prima volta, e cioè la differenza tra entrate e uscite era positiva prima di pagare gli interessi sul debito, per cui c'era stato un miglioramento anche nel rating, anche nell'andamento, diciamo, dei titoli di Stato. Tutto questo finché non si è scoperto che, diciamo, Tsipras è avanti nei sondaggi, la Grecia probabilmente andrà a votare a febbraio e c'è un nuovo giro, diciamo, di vite che la Troika chiede, che mette molto in difficoltà Samara stesso. Allora, se posso farti la domanda, forse l'unica possibilità per far uscire Samara da questa impasse ce l'ha la Troika stessa, o no? Certamente, sarebbe stata un'ipotesi molto più plausibile dare alla Grecia la possibilità di avere, chiudere questo piano, appunto, di aiuti che scade al 31 dicembre per la parte europea e ai primi del 2016 per la parte del Fondo Monetario. Anche qui non si capisce bene come si siano sincronizzati, ma tant'è, ormai è così. E chiuso questo aspetto, dare quello che si chiama appunto un credito, una linea di credito nel caso in cui Atene avesse bisogno, ma appoggiare il ritorno sui mercati come era già avvenuto. Tutto questo invece, evidentemente, ci sono dei falchi nella Troika che hanno spinto per lanciare un messaggio durissimo, cioè in ogni caso, in qualsiasi tipo di governo ci fosse ad Atene, il nostro atteggiamento, la nostra politica è quella di sempre. Allora, di fronte a un atteggiamento così rigoroso, ma nello stesso tempo così poco politico, ha messo Samaras in una situazione ingestibile e lo ha costretto a giocare d'azzardo. Questa è una classica mossa da pokerista, sta cercando di anticipare tutto il problema che sarebbe stato a febbraio, perché il calendario era previsto a febbraio per questo rinnovo delle presidenziali. Lo ha giocato prima perché è ancora sotto tutela della Troika in questo momento, quindi lui sta giocando una partita veramente complessa, sperando che i deputati che gli mancano adesso per arrivare ai famosi 180 deputati di maggioranza si in qualche modo capiscono che rinsaviscono, diciamo, e dicono: beh, meglio non tentare la sorte e restare in una situazione del genere. Certo, è un gioco molto pericoloso, ma Samaras è stato messo all'angolo da questa politica della Troika della stessa. Troika. Sì, bisogna stare attenti, avere un po' di lungimiranza. Ecco perché noi non ci fidiamo di un'Europa in mano solo ai tecnici e ai ragionieri. Massimo rispetto per i ragionieri, se non mi scrivono gli ragionieri. Però, insomma, l'Europa è una cosa troppo seria per essere lasciata solo in mano ai tecnici contabili. Mettiamola in mano anche ai politici, ammesso che abbiano la lungimiranza che la politica dovrebbe avere. Tieni conto che il debito greco oggi, dopo la ristrutturazione, perché ricordiamolo, c'è stata la più grande ristrutturazione del debito privato, sono stati 100 miliardi che chi aveva dei soldi in bond greci hanno perso, quindi hanno perso il capitale, 100 miliardi persi, questo vuol dire che è la più grande ristrutturazione del mondo moderno. Ecco, oggi il 330 miliardi di euro che rappresenta il debito greco, il 72% sono in mano all'Unione Europea e al Fondo Monetario. o meglio, l'Unione Europea ne ha il 60% divisi per i vari paesi e il 12% al Fondo Monetario. Poi ce n'è un altro 8% in mano alla BCE e tutto il resto è soltanto appunto in mano ai privati. Quindi la grande maggioranza, 80%, è tutto in mano al pubblico. Pubblico vuol dire quello che i mercati appunto chiamano official loans, quindi è in mano a Bruxelles, è in mano a Francoforte la decisione finale di come gestire. Tu puoi anche decidere di spostare in avanti e ridurre il tasso di interesse, certo. Per e ufficialmente non hai ristrutturato, ma certamente hai alleviato. Cioè invece che ridarmeli, diciamo, con una scadenza un anno, me li ridai con una scadenza 2-3 anni. Di formalmente non ristrutturi, cioè il debito da rimborsare resta uguale come valore nominale, di fatto diluisci in realtà l'impatto e permetti alla Grecia di respirare. Sì, sono d'accordo, anche perché poi io non capisco a chi potrebbe convenire un fallimento sostanzialmente del debito greco di nuovo, perché poi la prenderebbe appunto le conseguenze. Verrebbero pagate dalla Commissione, dagli europei in primo luogo e quindi da tutti noi, senza risolvere granché il problema. I tedeschi sarebbero peggiori. Un'ultima domanda però, Vittorio, c'è chi dice ma in realtà la tranche di aiuti europei ormai è l'ultima, per cui la Grecia ci perderebbe poco e questa è la scommessa che si fa. In realtà la Grecia non è in grado ancora di camminare da sola, cioè sarebbe veramente troppo complesso tornare sul mercato senza avere lo scudo, il paracadute di una possibile linea di credito, perché basta che un'asta non vada a buon fine, certo. O non ci sia una richiesta sufficiente o i tassi fossero superiori al 9% e tu già sei in una situazione ingestibile. Quindi è chiaro che hanno bisogno ancora di una situazione di questo tipo. Ma se tu vai a spingere questo paese al default, quelli che ci perdono di più sono in proporzione quelli che sono i maggiori azionisti di BCE e dello ISM, cioè i tedeschi, che dovrebbero pagare un default da 330 miliardi e sarebbero tutti in proporzione anche a carico loro. Quindi è veramente un populismo su cui non si fa chiarezza, cioè in qualche modo sono già... Bah, sì, lì è il problema di quello che dicono poi i leader politici ai loro elettori, vale anche in Germania, cioè se in Germania spiegassero attenzione, ci costa meno dare un po' più di chance alla Grecia in questo momento, avere un rimborso del debito più dilazionato nel tempo, piuttosto che far saltare la Grecia, perché poi i primi a pagare le conseguenze sarebbero i contribuenti tedeschi, forse così il messaggio potrebbe anche passare, no? Ma è tutto un problema di lungimiranza politica. Grazie Vittorio Darold, del Sole 24 Ore, traffico e poi restiamo in tema di Germania. Allora, vedo tantissimi messaggi sulla gestione della Grecia. Sì, lo so, il passato che ritorna è come sempre non sotto forma di farsa, ma in maniera ancora più acuta. Vediamo se dal vertice che inizia domani verrà inaugurato ai massimi livelli possibili il vertice italo-tedesco, ossia vi sarà domani il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e il Presidente della Repubblica Federale Tedesca Joachim Gauck, domani appunto il primo Italian-German High Level Dialogue è organizzato su impulso della Presidenza della Repubblica con il patrocinio del Ministero degli Esteri e il coordinamento dell'ISPI, che è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Venerdì 12 dicembre vi saranno poi i lavori a porte chiuse con 30 rappresentanti di ciascun paese, quindi 30 italiani e 30 tedeschi, dall'imprenditoria alla scienza, alla cultura, alle istituzioni, il ministro Federica Guidi e poi il numero uno di Allianz, cito così in maniera simbolica il numero uno di Allianz Klaus-Peter Reuler, il capo di Deutsche Bank Italia Flavio Valeri, e ancora Giuseppe Vita, presidente di Unicredit, il giudice della Corte Costituzionale Federale Tedesca Peter Huber, Erwin Raue, presidente della Camera di Commercio Italo-Tedesca. Allora, dottor Antonio Villafranca, responsabile dell'Osservatorio Europa proprio per l'ISPI, buonasera. Buonasera a voi. Cosa sperate che emerga? Al di là, è ovvio che il Presidente della Repubblica italiano e quello tedesco dovranno avere degli interventi e fare degli interventi di carattere molto alto e istituzionale. Da questo dialogue cosa deve uscire? Ma guardi, credo che la cosa più importante sarebbe uscire proprio dalla dialettica politica che ci vede spesso contrapposti magari con botta e risposta tra i due governi, perché comunque è chiarissimo a tutti, è chiaro ai governi stessi ed è chiaro alla società civile che il rapporto italo-tedesco è fondamentale per l'Italia, è fondamentale per la Germania. Ogni anno solo l'interscambio commerciale vale 100 miliardi tra Italia e Germania. Per noi la Germania è il primo partner commerciale, noi siamo il loro sesto partner commerciale. Sesto? Sì, per loro. Quindi anche in termini di investimenti diretti, è vero che i flussi di capitale negli ultimi anni si sono ridotti, però ormai c'è veramente un'interconnessione tra i due paesi che è altissima e appunto la partecipazione così ampia anche della business community, come citava prima lei, è una testimonianza del fatto che non si può prescindere l'un l'altro. Abbiamo un destino comune, insomma, che va anche al di là della moneta unica. Allora, ecco. Su questo forse la sensazione che noi riceviamo è che mentre per esempio gli imprenditori tedeschi e la Confindustria tedesca siano molto consapevoli della necessità di tenere assieme l'Europa e che non si possa cedere troppo all'austerità, perché poi il crollo dei consumi in Francia, in Spagna, in Italia danneggia la stessa Germania, danneggia l'export tedesco, lo vediamo dai dati in questi, certo, in questi ultimi giorni. La sensazione che abbiamo è che mentre diciamo i vertici siano consapevoli che il vantaggio sarebbe anche per la Germania, perché un'Europa che consuma di più, che investe di più, utilizza anche beni strumentali, beni di consumo tedeschi, la sensazione è che invece l'opinione pubblica tedesca sia ancora molto molto scettica. Può avere anche delle ragioni, ricordavamo ieri quando legge degli scandali, l'ultimo Roma Capitale, è chiaro che tutto diventa più difficile e diventa difficile convincere il contribuente tedesco che ci sono buoni motivi per permettere all'Italia di allargare i cordoni della borsa, perché lui poi pensa che noi questi soldi ce li mangiamo in corruzione, e devo dire che in parte l'abbiamo anche fatto. Non rischia di esserci uno scarto tra quello che pensano i vertici, cosmopoliti, mitteleuropei, quant'altro, e invece poi l'elettorato di base, che è quello che poi fa la differenza? Quello sicuramente, e questo purtroppo è il problema che c'è in Germania come c'è nel resto d'Europa, anche a causa dell'austerity. Però io distinguerei proprio il piano, e lei lo faceva correttamente, il piano economico da quello politico. Da un punto di vista economico ormai è chiaro a tutti che l'austerità da sola assolutamente non può bastare. È chiaro al Fondo Monetario Internazionale, proprio la Lagarde lo diceva ieri a Milano, e hanno anche pubblicato come Fondo Monetario Internazionale uno studio che proprio evidenzia come se tu in una fase del ciclo economico negativo non investi, effettivamente difficilmente poi ne puoi venire fuori, se non veramente con oneri molto, molto alti. E la questione è strettamente politica. È politica e lo si vede anche nel modo in cui i tedeschi, il governo tedesco comunica con i propri elettori. Abbiamo visto domenica la Merkel ha criticato il processo di riforme in Italia, perché era un'intervista che era indirizzata essenzialmente agli elettori tedeschi. Quando invece lunedì il suo ministro delle finanze è arrivato all'Eurogroup e è andato a Bruxelles, i toni erano assolutamente molto più morbidi e addirittura ha espresso un apprezzamento per lo sforzo italiano per le riforme. Lì la questione è una questione di fiducia. I tedeschi essenzialmente non si fidano non soltanto dell'Italia ma anche di altri paesi, perché pensano che nel momento in cui varrà meno la morsa della crisi, allora ecco che la pressione per realizzare le riforme sarà assolutamente più bassa, e noi dobbiamo ovviamente fare in modo che questo appunto non si verifichi, ma soprattutto io credo dobbiamo far capire una cosa che credo sia il vero punto debole della strategia tedesca. Se si continua sul piano dell'austerity, quello che si rischia di avere è un effetto, diciamo, domino verso quei governi che dovrebbero proprio perseguire delle politiche di austerity. È un po' quello che stiamo raccontando sulla Grecia. Se metti nell'angolo con le spalle al muro Samaras, è chiaro che questo non ha alternative, va a perdere le elezioni comunque. O gli dai una possibilità o vince Tsipras, e poi voglio vedere come fa la Troika a parlare con Tsipras. Rilancia, non è un caso che abbia anticipato. Senta, ma non vi ha un po' rotto le uova nel paniere le dichiarazioni di Angela Merkel quando ha detto le riforme insufficienti al Die Welt, poi ieri Schäuble un po' ha corretto anche il portavoce della Merkel, non sono state intempestive. È proprio quello che dicevo prima, è il gioco un po' delle parti, è una cosa che si è visto più volte in termini di comunicazione. Quando parlano a degli interlocutori, cioè ai loro cittadini, in Germania usano dei toni molto più fermi, molto più decisi. È l'intervista che faceva appunto la Merkel domenica. Quando parlano invece ai cittadini europei, quindi quando sono all'interno di un'istituzione, quando sono in un vertice internazionale a Bruxelles, come ha fatto invece il ministro delle finanze lunedì, i toni sono decisamente più morbidi. Ma come dicevo, è una questione veramente di fiducia. Loro sono i primi a voler dare l'esempio, le dico questa cosa: loro potrebbero arrivare in pareggio di bilancio quest'anno spendendo ancora 30 miliardi, non lo fanno, preferiscono non farlo, perché loro devono dare l'esempio, perché loro... Ma l'esempio di che, mi scusi? Cioè, stiamo dicendo da anni che ci vogliono, che i paesi che hanno buoni conti di bilancio, tra cui in primis la Germania, è inutile avere, capito, il convento che sta andando a pezzi e i frati, alcuni frati ricchi, altri che sono invece con le pezze nella tonaca. Allora, teniamo in piedi il convento e se alcuni frati ricchi, perché sono stati bravi, mi riferisco alla Germania, fanno degli investimenti, lei pensi a 30 miliardi o quant'altro, avvantaggiano tutta la casa europea e così... Ma vede, si salva il convento, perché un frate senza convento è un frate a spasso, e vale anche per la Germania, no? Io sono d'accordissimo con lei, basta vedere i dati della crescita della Germania. Quest'anno sarebbe dovuta crescere di circa il 2%, già ancora in primavera dovevano crescere dell'1,8%, adesso si sa che cresceranno dell'1,3%, il prossimo anno probabilmente saranno sotto l'1%. Hanno avuto due trimestri consecutivi di decrescita, loro sono stati tecnicamente in recessione addirittura quest'anno. Quindi la situazione sta cambiando anche per loro. È un problema anche di comunicazione politica, diciamo, che c'è in Germania. Di leadership politica, se posso dire. Però c'è un aspetto fondamentale su cui loro assolutamente non cedono. Ad esempio, loro dicono: noi siamo pronti a far di più, noi siamo pronti addirittura ad una parziale condivisione dell'indebitamento in Europa, perché non è vero che loro sono per principio, ad esempio, contrari ai famosi Eurobond. Loro dicono: noi li accettiamo anche, a patto ovviamente che questo coincida con una maggiore cessione di sovranità a Bruxelles. Cosa vuol dire in soldoni? Questo vuol dire: noi italiani, i greci, sono disposti ad accettare un ministro delle finanze dell'Eurozona che possa dire no a quelle pensioni, dobbiamo tagliare le pensioni, condividendo poi l'indebitamento nell'Eurozona? Questo non so se siamo... Sì, ho capito, in cambio di riforme, è chiarissimo. Comunque in bocca al lupo, perché sarà un vertice, poi vedremo cosa emergerà, nonostante sia a porte chiuse. In bocca al lupo per il vertice che inizia domani, poi entra nel vivo venerdì 12 dicembre. Grazie a Antonio Villafranca, responsabile dell'Osservatorio Europa per l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Da Sebastiano Barigioni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto un augurio di buona serata.